L'originale è stato realizzato nel 1978 e con il contributo determinante per la progettazione del maestro Tito Gotti del Teatro Comunale di Bologna. Allora gestiva le feste musicali, che erano appunto questi eventi fuori dal Teatro Comunale che andavano in luoghi bizzarri, strani o comunque in movimento. E assieme a Cage inventarono e pensarono questo progetto di questo treno tra virgolette preparato, che fece tre viaggi allora nella regione, che erano Bologna Porretta, Bologna Rimini e Rimini Ravenna, anzi Ravenna Rimini. Quell'evento è stato in qualche maniera una cosa straordinaria, perché a parte la quantità di pubblico e di persone che furono presenti, presenziarono all'evento sia sul treno ma soprattutto nelle stazioni attraversate dal treno, perché il progetto prevedeva che il treno si fermasse nelle stazioni, doveva essere un treno di pendolari innanzitutto, che si fermasse lungo le varie stazioni che si incontravano lungo i tre percorsi citati prima, ed era una cosa molto complessa e complicata, nel senso che c'erano suoni registrati prima in questi paesi che dal treno venivano rimandati verso il pubblico che era in attesa nelle stazioni. Sulle banchine delle stazioni c'erano diversi gruppi musicali di qualunque tipo, per questo che ci sta tutto, c'erano gruppi rock, gruppi popolari. Infatti abbiamo cominciato con l'Osteria del Mandolino. Esatto. Perché appunto era questa la particolarità di questo evento, cioè c'era tutti i generi di musica. Sì, c'erano. Sì, Liscio in particolare, mi ricordo alla stazione di Porretta. No, perché quando uno pensa a John Cage, no, pensa a delle cose molto ostiche, sperimentali. Quello era un happening ovviamente, dove si mescolava tutto. E esatto. Dove, ma lui era anche aperto queste cose, quindi... Ma certo. Beh, è stato, voglio dire, adesso non voglio fare discorsi roboanti di alcun tipo, però John Cage è stato probabilmente il più grande compositore del Novecento, quello più vivace, quello che ha inventato più cose, insomma, no? Ha sdoganato il silenzio, ha inventato la musica. Se ricordiamo che ha fatto anche un disco che era lato A, lato B, silenzio, cioè lui registrava il silenzio di uno studio di registrazione, sì. Dove diceva, poi c'erano delle frequenze anche, però io... No, questo serviva, il silenzio, cioè non avere nessun tipo di evento sonoro preprogrammato, preordinato, consentiva all'ascoltatore o agli ascoltatori di ascoltare quello che succedeva nell'ambiente in cui erano, certo. Per cui prestavi molta più attenzione a qualunque altro tipo di rumore che... Cioè tipo la lavagna che fa la centrifuga, anche quello. Qualche anno fa abbiamo fatto una sorta di performance con le biciclette arrivando lì dietro all'Arena del Sole, e abbiamo eseguito 4 minuti e 33 secondi appunto di silenzio e così si potevano ascoltare i suoni delle serrande che si abbassavano, perché era l'ora della chiusura, degli uccelli che passavano, insomma, vabbè, questo era lo spirito. Lo spirito super sperimentale con cui nel 78 si potevano fare cose che sembrano pazzesche, perché per fare questo è stato coinvolto ovviamente la parte pubblica, le Ferrovie dello Stato, certo. Cioè abbiamo parlato del direttore del Teatro Comunale, quindi non c'è niente di nuovo oggi quando si fanno delle cose in luoghi, facciamo in un luogo anomalo, no, non è che l'abbiamo inventato adesso, no? No, beh, ma vabbè, ma ormai non si inventa più niente, appunto. Adesso si può rievocare, riallacciarsi a qualche evento straordinario che c'è stato e cercare di darne una lettura dei tempi nostri. Contemporanea, diciamo. Sì, sì. Quindi... inventare qualcosa di nuovo in quell'ambito lì è dura. Poi voi, vabbè, non ne abbiamo mai parlato, ma io ho fatto un piccolo libretto sul futuro della musica. Sì, sì, lo sappiamo, però sì, non ne abbiamo parlato, ma lo sappiamo. No, okay, meno male. Ma ne abbiamo anche parlato in alcune trasmissioni qui in radio qualche estate fa con te, che sì. Si parlava di nuovi strumenti, di cose, insomma, di un approccio diverso al mondo musicale sonoro in qualche maniera, che è un po' poi la tua materia fin dalla nascita, sì, fra virgolette, sì, no? Sì, beh, sì. Ah, perché uno pensa a Oderso, pensa a Bologna Rock, pensa agli Schiantos, no, ma lui viene da altre cose che in teoria così per un comune mortale non sono compatibili. Per infatti, un comune fra mortale. L'altro, Oderzo era presente anche nel progetto originale di John Cage. Sì, sì, sì, beh, questo è il motivo per esatto. cui alla fine ormai sono l'anima di quel del treno. Per quello che è qua con noi oggi. Esatto, esatto. Va bene, quindi arriviamo ad oggi. Arriviamo ad oggi. Arriviamo ad oggi. No, diciamo anche che c'è stata una sì. rievocazione fatta nel 10 anni fa per il trentennale, okay. fatta con Angelica e con Alvin Karan che ha curato tutta la parte artistica, e in quell'occasione facciamo due viaggi Bologna-Porretta. Sempre con la collaborazione delle Ferrovie dello Stato, delle istituzioni, della regione, eccetera, eccetera. Questa volta, per arrivare a bomba all'attualità, ovviamente siamo molto più ristretti da tanti punti di vista. Il viaggio sarà uno solo, le risorse economiche sono praticamente quasi nulle, però. Sono i 40 anni, ci sembrava giusto sfidare. Siamo ristretti sul treno, però poi ci estendiamo a Porretta. Sì, diciamo. Poi dopo ci allarghiamo a Porretta. Sì, sì. Cosa abbiamo in sottofondo? Abbiamo Verotica Radio Mix. Vuoi dire qualcosa di quello Verotica che sarà presente? Tra l'altro, io ne faccio parte. Sul treno. Porteremo un evento particolare pensato proprio apposta per il treno. Fondato soprattutto su campioni e registrazioni ambientali della Valle del Reno. Okay. Quindi da Porretta, fattorie, capre, pecore, aziende, fino proprio agli elementi della stazione, anche urbani di Bologna. Proprio anche questo per riportare uno dei temi di John Cage, che sono le registrazioni ambientali. Sì, era una delle caratteristiche del treno originale, dove due collaboratori di Cage, coadiuvati da me, da Carlo Cialdo Cappelli, andavano in giro a registrare suoni dell'ambiente in cui il treno sarebbe passato, appunto, che sono quelli che citava Andrea poco fa, e poi noi li assemblevamo in studio, facevamo dei loop, sceglievamo il materiale sonoro da utilizzare, facevamo dei loop e poi li registravamo per la durata di un'ora su delle cassette. Infatti ogni stazione c'erano sei campioni, giusto? No, di più, erano una ventina di campioni che poi venivano diffusi dal treno verso, cioè si riportavano i suoni di quella zona dal treno, okay, insomma, in qualche maniera, okay. Quindi faceva parte del progetto originale, e quindi giustamente Andrea ha sì, sul treno ci saranno questi elementi, diciamo, che richiamano di più l'esperienza di John Cage, e altri che invece sono indirettamente riguardanti Cage, però ecco, più nello spirito, no? Quindi certo. Cose molto diverse, da ensemble medievali, rock, blues, anche sperimentali, perché certo. Ci sarà avremo un gruppo, per esempio, che suona i campi magnetici. Cioè, quello, come si chiama quello pure? L'impero della luce. L'impero della luce, l'ho visto, una cosa che mi piace, voglio dire, campi magnetici, il treno insieme, te, ciao. Esatto, captano praticamente i campi magnetici prodotti da alcune cose che si portano, ma anche sì, soprattutto sono cose che comuni. Sono sì. C'è una lampada, un frigo, un tostapane. Esatto. Se sentite il campo, per esempio, il suono prodotto da un cellulare inattivo, sembra praticamente un'orchestra di 150 pazzi scatenati, sì. Pensate. E produce continuamente qualcosa, no? Quindi i campi magnetici, se captati con dispositivi adatti, in realtà creano delle sonorità che sono bellissime, ovviamente del tutto casuali se uno non è abituato a manipolarle, altrimenti dalla casualità si riconduce un po' a un prodotto che diventa musicale in qualche modo. Ok. Allora, non abbiamo... Intanto c'è Fausto che ci scrive al 333-180-9494, ho partecipato alla rievocazione del treno di John Cage una decina d'anni fa, ne abbiamo anche parlato, e fu una bellissima giornata di musica. Saluti al signor Oderzo. Lui è Fausto, il signore. Grazie Fausto. Preparati anche a quello che faremo per i 50 anni, eh? Ah, quindi sì. Perché stiamo già pensando oltre. Certo. Oh, allora, però che non sarà abbiamo... un treno all'idrogeno che adesso l'hanno fatto sì, in Germania. Sì, sarà. Non abbiamo ancora detto la data, ragazzi. 13. Questa cosa 13 d'ottobre. Sì, sì. Partenza sabato 13 ottobre. Partenza dalla stazione di Bologna alle ore 10 e 09. E 09. Ok. E poi ci sono delle soste nelle stazioni, mi sembra che in due sì. ci sono Marzabotto e Riola, se non sbaglio. Sì, esatto, sono due due happening che accoglieranno il treno. Sì, quello di Marzabotto sarà più lungo e più con un coro variegato. No, non è un coro, sono bande. Bande della zona, bande, no, il coro, di banditi che di solito operano. Il coro è stato occupato da altre cose. E invece a Marzabotto, a Riola, che è una fermata molto più breve, saranno due musicisti del treno che scenderanno e faranno una cosa particolare. Comunque. No, ma piccato, ho visto che siccome ci si mette quasi tre ore, no? Sì. Solitamente il treno per andare a Porretta ce ne impiega allora dico queste soste. Allora diciamo che questo è un treno storico già di per sé a vapore, esatto, quindi non è nemmeno come quello originale che invece aveva una conformazione un po' più moderna, anche se era un treno per pendolari, però le carrozze, alcune delle carrozze sono le stesse del treno originale. Ah, sono proprio quelle? Sono le 100 porte si chiamano. Okay. Hanno un po' queste adesso che ci adesso saranno nuove. Sono ristrutturate, ma comunque sono le 100 porte che erano quelle carrozze che avevano ogni posto aveva una porta, esatto, sì, aveva una porta per entrare e uscire, quindi sì, no, il viaggio sarà abbastanza lungo per quello che quante carrozze? Cinque carrozze più una carrozza merci per portare il generatore di corrente. Sai com'è? Perché... mi sembra che siano 396 posti. Sì, esatto. Esatto, quindi sì. Quindi questo è il viaggio, no? Quindi voi partite alle 10:09 da Bologna, arrivate a Porretta intorno a l'una di sabato 13. Esatto. Consiglio, visto che c'è il mercato, di andare, c'è un banchetto che fa il pesce fritto che arriva dalla Toscana, molto interessante. A Porretta. Poi parliamo anche di questo però aspetto enogastronomico. Esatto, sì. Però Porretta, adesso al di là dell'enogastronomia, che comunque farà parte di questa manifestazione, alle 15 si apre una mostra e un'esibizione. Sì. Poi però saltato qualcosa. No, quello, dopo di Porretta arriviamo dopo. No, era importante dire che con oggi si avvia una sorta di prevendita dei biglietti chiamata Early Bird. Early Bird, esatto. Aggiornatissimi, domani, no? 28. Il 28, scusami, sì, da domani. E, dato che i posti sono pochi, c'è questa prima fase di prevendita che inizierà appunto domani, 28, sì, quindi guardare su Facebook per seguire tutte le informazioni. Come si fa? Scusa, sempre sul sito di Bologna Welcome. Sì. Quindi www.bolognawelcome.it. Diciamo che attraverso i nostri canali più musicali, quindi un po' Discover Appennino, Discover Alto Reno Terme, che è il sito di promozione del comune di Alto Reno Terme, e un po' su per esempio un gruppo Facebook che si chiama Sint Caffè. Che è molto frequentato, abbastanza specifico sulle questioni proprio musicali, dell'elettronica sperimentale. Ecco, lì stiamo mettendo in giro questi biglietti, perché il problema sarà non vendere i biglietti, ma riuscire a riservare il più posti possibili a persone interessate all'evento, perché c'è un pubblico enorme interessato ai treni storici. Certo. Per cui appena i biglietti vanno in vendita praticamente finiscono, e sarebbe bello che in questa occasione sul treno ci fossero più persone interessate all'evento che non al treno, in generale. Con certo, questo che quelli chi viene poi legato al treno si divertirà, nel senso che si trova in un contesto totalmente inaspettato. Diciamo che il purista da treno storico dice: cos'è sto casino? Però dopo alla fine si mette a fare casino anche lui. Però se lo gode, certo. No? Però pensavo, sai, il purista che va lì giusto per sentire il vapore, no? Perché in ma gliene caso... teniamo un po' di vapore. Ascoltiamo qualcosa? Sì, io direi che teniamo un po' in sottofondo questa cosa qui, anche perché c'era, secondo me, interessante è quello che poi accadrà anche a Porretta nel pomeriggio sia di sabato e forse anche di domenica, se ricordo bene. Esatto. Dal soprattutto comunicato. Domenica, poi sì. Sabato pomeriggio sì, ci saranno una serie di c'è un palco in piazza Porretta dove si alterneranno diversi tipi di eventi, che sono da una parte chiacchiere o racconti legati sia a Cage che alla musica, oppure al cibo e all'alimentazione, insomma, perché dato che è una settimana, due giorni dedicata alla biodiversità del cibo e dei suoni appenninici. Quindi, questo, quindi il trade union, sì, tra, esatto, quindi ci saranno cose da sperimentare sia col palato che con le orecchie. Esatto. È molto interessante. No, infatti è una cosa molto interessante. Certo che mette insieme un pubblico enorme tutto ciò, perché abbiamo parlato degli appassionati di musica elettronica sperimentale, gli appassionati dei treni storici, che ho scoperto essere tantissimi, gli appassionati della l'enogastronomia, che sono pure troppi e quindi direi che ci sarà un bel interesse. E poi ci sono questi vecchi synth, no? C'è Scolopendere che porta dei vecchi synth, com'è la mostra che inizia alle 15. Sì. Scolopendere porterà, diciamo, delle cose che ovviamente portate da loro saranno sicuramente stupende, per cui c'è un pezzo più unico che raro che racconterà meglio Derso, che lo conosce bene. E poi abbiamo la presenza di Midiware, in particolare di GRP, che è un costruttore di sintetizzatori italiano di Roma, che fa strumenti di qualità eccelsa. I suoi clienti sono Hans Zimmer, Jean-Michel Jarre, Battiato, e verrà il titolare Paolo Groppioni con alcuni suoi strumenti, diciamo, da vedere, da far provare. Mentre domenica sarà affiancato da Enrico Cosimi, che farà proprio una dimostrazione dei nuovi moduli Eurorack GRP, quindi una cosa molto nuova, ancora sul mercato ce ne sono pochissimi li hanno visti e sentiti, e una volta che li hai sentiti, quelli lì veramente ti ribaltano completamente, perché hanno un suono unico, meraviglioso, e saranno provati da Cosimi, che li sviscererà così per chi viene. Suono unico e meraviglioso come il mio Moog originale quello che citava, quello da cui poi io insomma, in qualche maniera, per il motivo per il quale mi sono avvicinato in maniera poi in qualche maniera operativa alla musica, nel senso che sì, ero un appassionato che ascoltava dischi eccetera eccetera, ma la scintilla suonicchiavo così due accordi sulla chitarra, ma la scintilla vera è stata ascoltare il concerto di Emerson, Lake & Palmer allo stadio comunale, con dove lui aveva questo sintetizzatore enorme che era poi il Moog 3C. La sigla era Moog 3C. Non era, diciamo, di quelli portatili. No, non era per niente portatile. E io rimasi affascinato da quel suono fino a che, leggendo un po' di giornali, seppi che a Bologna c'era un corso di musica elettronica in conservatorio, per cui, pur non avendo conoscenze musicali così approfondite, decisi di provare a vedere se potevo iscrivermi, cosa che per fortuna è successa. Ho frequentato quel corso 5 anni, e poi è grazie a quel corso che poi è nata l'amicizia con Carlo Cialdo Cappelli. Da lì è partito lo studio su cui poi abbiamo costruito il piccolo studio di registrazione, su cui abbiamo costruito tutta l'attività dell'Harpo's Bazaar e dell'Italian Records, e quindi, insomma, in qualche maniera è stato fondamentale. Quindi sì, ci sarà il tuo Moog? Sì, ci sarà il mio Moog. C'è la Scolopendere adesso? Sì, l'ho dato loro perché lo mettessero un po' in funzione. Perché un po' di spray? No, non tanto perché, no, solo per farlo funzionare senza che si rompa qualcosa. Certo. Poi la pulizia, vabbè, quello è un problema relativo. No, ma mi servirà anche per un altro evento dell'anno prossimo, per cui ho deciso di ripristinarlo. Anche per il cinquantennale. Poi per il cinquantennale. Vabbè, ma sul cinquantennale faremo una roba mega galattica. Sì. No, comunque interessante questa cosa. Poi tornando invece a Porretta, sabato, dopo sul palco centrale, dopo tutti questi eventi, incontri, dibattiti, chiacchiere, faremo vedere anche il filmato del treno originale, un filmato di una 30 minuti che noi girammo allora con un Super 8 che in qualche modo era la tecnologia dell'epoca, diciamo, era quello che ci potevamo permettere. Certo. E quindi poi dopo tutte queste chiacchiere ci sarà ancora musica, ci saranno gli Avvoltoi che suoneranno dal vivo, e questo a Porretta è un altro set musicale che non abbiamo ancora da confermare, però insomma ci sarà musica anche il sabato. Poi la domenica invece la cosa sarà concentrata appunto su questa cosa dell'elettronica, con una presentazione di questi strumenti, e speriamo di coinvolgere più giovani possibili che si occupano di elettronica. Lo dicevo prima, in qualche maniera questa nuova ondata di elettronici mi ricorda quella dei miei tempi, dei miei anni, perché noi siamo nati tutti con questi sintetizzatori più o meno modulari. E oggi che c'è questa grande riscoperta, questo grande ritorno di questi strumenti modulari, sono più piccoli, sono fatti anche meglio probabilmente, allora la tecnologia è andata avanti. Esatto, e quindi è molto interessante che ci siano tanti giovani che si stanno dedicando a questa cosa, e a me personalmente fa molto piacere, e spero che da questo poi nascano tante altre cose nuove. E anche perché diciamo è territorio tuo, fra virgolette, nel senso l'elettronica intesa. Intanto sentiamo, abbiamo un altro sottofondo, che questo è più legato ai suoni, forse la piuma. Sì, questi sono tutti suoni che vengono dalle nostre parti. Sono cervi che fanno il bramit, che tra l'altro sono d'amore proprio, sì, in questo periodo. Proprio in questo periodo. Fanno anche quasi paura. Sì, la prima volta che l'ho sentito non sapevo chi è. Esatto, se pensavo c'è un cos'è, mostro. Pensa o a un orso o a un leone ubriaco da qualche parte. Invece sì, no, sono cervi. Sono impressionanti, hai ragione. Esatto. Poi per esempio in questo caso quello scricchiolio sotto che si sente è il fuoco che brucia in un seccatoio per le castagne, quindi è una cosa proprio super appenninica, tipica nostra per seccare. Api, grilli, insomma è un insieme di paesaggi sonori volutamente scollegati da un contesto spazio-temporale, quindi ci sono grilli, cervi, fuoco e acqua che si susseguono. Bello. Questo un po' è un'idea di quello che potremmo, cioè che porteremo, sì, in vari momenti, sia sul treno che a Porretta. Ma è anche quello che poi era successo nel 78, parlavamo prima, buona parte, dei suoni, sì, locali, sì, che erano insomma, infatti, in qualche maniera riprodotti. Una cosa molto bella dei suoni portati da Case, che poi insomma Vers conosce molto meglio di me, c'era una forte componente antropica, quindi c'erano voci, fabbriche, mercati, zone urbane, eccetera. E oltre a questi, diciamo, abbiamo voluto dare in questa occasione più risalto anche invece proprio ai paesaggi più da tutelare in un certo senso, no? Quindi quelli degli animali selvatici, dei paesaggi lontani dal giro di aeroplani, di macchine e fattorie, sì, sono animali che in città insomma siamo poco abituati ad incontrare. Una cosa veloce, è importante capire, ci saranno due contesti, no? C'è il palco principale dove si susseguono elementi legati al cibo e in particolare a John Cage e a quello che ha rappresentato, e poi c'è invece questa zona che abbiamo chiamato zona Expo, dove oltre all'esposizione degli strumenti scolopendra, MIDI, WRGRP, più ci sarà un luthaio locale che fa chitarre con legni del posto, eccetera. In questa zona Expo c'è comunque musica, nel senso che tutti i maniaci elettronici e psicomodulari, ecco, faranno le loro cosine, per cui non è solo una cosa dove si guarda, ma si ascolta tanto anche lì. Questo stiamo parlando della mostra, quella. Sì, che è nel comune, infatti, nel comune, nell'androne del comune. Quindi praticamente dietro al palco, perché il palco sarà in quella piazza, no? Se ho letto bene. Quindi sì, è tutto lì, abbastanza localizzato. Sì, e poi ci saranno tutti quelli che fanno cibo da strada. Sono ci sarà pochi una serie, quelli che si sono persi a Porretta. Sì. Direi di sì. Sì, non è estesissima, mi raccomando. Quando scendete in metropolitana non inciampare. Ma io direi che siamo arrivati in fondo a questo appuntamento per parlare di questa rievocazione storica del treno di John Cage, che si terrà sabato 13 ottobre. Abbiamo anche detto che per gli interessati più alla musica che al treno, domani si apre una prevendita, una pre-prevendita, possiamo definirla così. Possiamo ricordare dov'è che si può trovare? Allora, l'informazione principale tramite i canali di Bologna Welcome. Sì, però in particolare per questa prima fase è Discover al Toreno Terme. Discover al Toreno Terme. Non è un biglietto caro, lo dico, no, perché 15 euro, no? Diciamo anche il prezzo. Veramente. E poi il 100% è in beneficenza. efficienza. Sì, quindi... il motivo per cui siamo così poveri. Cioè, quindi non è... poveri ma felici, diciamo. Anche gli incassi vanno in beneficenza, sì. Quindi si fa con quello che si ha, più o meno, no? Con quello che si può. Bene. Come sempre. Però quando c'è molto cuore, molta passione, diciamo, forse questa è la cosa più importante. E mi sembra che questa manifestazione di cuore e di passione ne metta a pacchi, tanto per... chiudere. Sì, io mi sento, avendo vissuto sia il primo treno che il secondo, posso garantire a tutti i potenziali o possibili o curiosi o spettatori o musicisti che avranno voglia di intervenire, che è un'esperienza che apre veramente la mente a chiunque partecipa. Me lo hanno testimoniato tantissime persone che erano sul primo treno, e me le hanno testimoniato persone che erano spettatori sul secondo treno, che scendevano dal treno con, che erano felicissimi di essere stati presenti. Quindi chi ha voglia di partecipare a un evento comunque interessante, divertente, stimolante, non esiti a venire anche a questo treno.